che bagni questi soli di sogni e di facili amori perduti nell'anima. Pensa quanti occhi ti guardano e quanti ti bagnano ancora col pianto di storie che non capirai. Quegli occhi